11.00 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Un buongiorno a tutti e tutte da Eddie in questa mattinata in cui condividiamo il cortile del Checky Point con l'estate ragazzi che si fa sentire, ma soprattutto non concorda col cielo che è tutt'altro che estivo. Parole Ribelli anche oggi comunque vi tiene compagnia fino alle 12.45. E quindi un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici anche da Francesca. Vi ricordiamo come sempre i contatti della radio: 011 249 5669, il numero del telefono fisso. Per gli sms potete scrivere al 346 667 3263. E a questo proposito, poco fa ci ha chiamato un ascoltatore che ci segnala che sulla linea del 4 all'altezza dell'ospedale Mauriziano ci sono vigili accompagnati da controllori, quindi se vi trovate da quelle parti e state approfittando malauguratamente dei servizi di trasporto pubblico, cisti. Noi adesso come sempre vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi andiamo a presentarvi gli argomenti di quest'oggi. Buon ascolto. Allora 11:05, vediamo gli argomenti di cui parleremo in questa puntata di Parole Ribelli. Inizieremo con una buona notizia dal locale, con l'occupazione avvenuta 2 giorni fa, domenica, in via Bardonecchia, di un edificio abbandonato da tempo, che oggi è diventato casa per una trentina di famiglie. Proprio questa mattina, tra pochi minuti, ci sarà una conferenza stampa per presentare questa nuova occupazione, mentre per il fine settimana sono già stati lanciati degli appuntamenti di festa, di socialità, per andare a conoscere questo nuovo spazio. Quindi cercheremo di metterci in contatto con i compagni e le compagne che in questo momento si trovano lì, per farvi sentire un pezzo della conferenza stampa, o in ogni caso per farci raccontare un po' come stanno andando le cose. Poi ci sposteremo, ma non di tanto, saliamo in Valsusa, comincia l'estate di lotta tra poco e comincerà in bellezza con una marcia popolare questa domenica, e allora andremo a collegarci con Ermelinda, una compagna del Comitato di Lotta Popolare contro il TAV, perché ci racconti un po' questa giornata. E infine chiuderemo invece con un approfondimento meno di cronaca, più culturale. Saremo in collegamento con dei compagni di un progetto che si chiama Valderrama, l'illusione del gol, che portano avanti appunto questo progetto a metà tra il letterario e il teatrale, in cui realizzano dei brevi brani appunto di letteratura, però incentrati su episodi legati alla storia del calcio. E questi compagni appunto stanno proponendo questo progetto su varie emittenti indipendenti e autogestite, quindi hanno chiesto una collaborazione anche con noi, che volentieri ve la proporremo e soprattutto ve la presenteremo in occasione di questo primo appuntamento. Quindi riprendiamo così anche un po' il discorso che si faceva, diciamo, che si faceva in occasione della presentazione di Ladri di Sport. Ricordiamo, diciamo, anche un po' il collegamento tra il grande evento, la grande opera e la grande infrastruttura sportiva e le tecniche predatorie riguardo ai territori. Sappiamo anche che proprio Torino ospiterà un festival dello sport antisessista, quindi sicuramente torneremo su queste tematiche, perché hanno una trasversalità e una, diciamo, anche un interesse per tanti e tante di noi centrale. E con questo direi che è tutto, vi lasciamo ancora un pezzo e poi iniziamo con la puntata. Them want to call the police, bo, bo. I don't want to call the police, bo, bo. Them want to call the police, but we cannot be. If them are marching our streets, no, no, bo. Them want to call the police, bo. I don't want to call the police, bo, bo. Them want to call the police, but we cannot be. Allora ritorniamo subito in onda per dare una notizia a tratti buona, a tratti cattiva. Ci è arrivato proprio in questo momento un SMS che ci annuncia che Marco e Erika sono usciti dal carcere e sono a casa ai domiciliari, avranno le restrizioni, però sicuramente ci fa più felici saperli appunto a casa che non tra le mura di un carcere, mentre purtroppo per Paolo e Toshi è stato deciso che per ora rimarranno dentro. Quindi salutiamo sicuramente con piacere la mezza liberazione dei due compagni, ci auguriamo che anche Paolo e Toshi al più presto possano lasciare il carcere. Ricordiamo che erano stati tutti arrestati in seguito a un episodio di resistenza, a una retata avvenuta alcuni mesi fa nella zona di Porta Palazzo, che appunto un paio di settimane fa c'è stata questa operazione che li aveva portati in carcere. Quindi questi sono gli aggiornamenti che abbiamo avuto per ora via SMS. Se ci fossero notizie più dettagliate, ovviamente datecele, che ne diamo notizia volentieri. Fight this with Kung Fu, Tai Chi, very unlikely, this joint, wrap it up. like Spike Lee with the night breed. Shift gear with the right speed. Push him up the block, black mask, face cloth, no ID. Now it's grimy. Violate, feel the wrath of the mighty. You know, playing with fire, this ain't disco. You will get burned out. Now it's dream. No, no, boo. Them want to call the police. Boo. I don't want to call the police. Boo, boo. Them want to call the police. But we cannot beat if them are marching out with dream. No, no. You better knuckle up. Did I stop a work? On your chin like a buttercup. Straight from the gutter up. Grounding and pound. Big blows raining. Stereo sound. Look what it's come to. You can't come through. Jet Li couldn't fight this with Kung Fu. Tai Chi, very unlikely. This joint wrap it up like Spike Lee. With the night breed, shift gear with the right speed. Push him up the block, black mask, face cloth, no ID. Now it's grimy, violate, feel the wrath for the mighty. You know, playing with fire, this ain't disco. You will get burned out in petrol. Fight in the flames, sell him. Taking the piss. E allora andiamo avanti con questa puntata di Parole Ribelli. Come abbiamo annunciato, diciamo, anche, anzi, come non abbiamo annunciato, diamo anche un po' di notizie di rassegna stampa e andiamo ad occuparci ancora una volta di Jobs Act, appunto la riforma del mercato del lavoro che ormai sono mesi che seguiamo, non solo per i tempi, diciamo, che la controparte gli ha dato, ma anche per tentare di anticipare. Bene, più e più volte l'abbiamo letta come uno dei tanti pezzi di quella che è una ristrutturazione molto ampia, una ristrutturazione che abbiamo visto sul finire dell'anno investire il comparto della formazione, dalla scuola, ma vedremo poi un autunno che probabilmente ci vedrà chiamati, diciamo, a battagliare sull'università. Bene, la riorganizzazione del mercato del lavoro, la liberalizzazione dei contratti a termine definitiva operata dal governo Renzi, altro non fa che accelerare tutto quel processo di precarizzazione e impoverimento che abbiamo visto aprirsi tempo fa. E quindi andiamo, diciamo, appunto, si entra nel vivo un po' il governo del fare, in effetti qualcosa sta facendo, nonostante poi la sproporzione tra quello che effettivamente accade e lo strombazzamento mediatico sia sempre abbastanza ampia come distanza. Bene, i decreti attuativi del Job Act comunque sono stati approvati. Nello specifico, le aziende potranno effettuare controlli a distanza sui lavoratori usando impianti audiovisivi, tablet, smartphone o PC aziendali. Lo scorso 11 giugno proprio il governo ha approvato questi decreti attuativi che, oltre a rendere operativa la riforma del mercato del lavoro, a livello contrattuale, liquida un altro pezzo dello statuto dei lavoratori. Ricordiamo appunto l'EIFU articolo 18, che per quanto non potesse ormai da solo garantiva veramente ben poco rispetto ai lavoratori, comunque ancora un po' il suo dovere lo faceva, era una delle ultime garanzie rimaste e soprattutto era anche un grande simbolo. Ricordiamo inizio 2000 le mobilitazioni per evitare che l'articolo 18 venisse soppresso, videro scendere in piazza tutto il paese. Queste, diciamo, quest'anno l'articolo 18 è definitivamente scomparso e non è che abbiamo visto tanto. Certo, abbiamo anche, è anche un'altra fase rispetto alla possibilità di manifestare il dissenso, ma questo è un altro paio di maniche, ne parliamo, diciamo, ne parliamo già abbastanza. E, in ogni caso, appunto, come dicevamo, questa notizia diventa non solo preoccupante rispetto alle condizioni lavorative in cui tutti e tutte ci troviamo ad oggi, ma anche rispetto a un mondo che non ha un minimo di regolamentazione rispetto appunto alle possibilità di controllo che di fatto lo sviluppo tecnico scientifico sta aprendo. In che senso? Sappiamo perfettamente come diciamo sproporzionata la possibilità di autoregolarsi dei grandi colossi dell'IT rispetto per esempio alle grandi aziende sui territori che producono magari nel terziario, piuttosto che, questo per dire cosa, non che invochiamo la costituzione della rete, una netiquette o chissà quale altro genere di regolamentazione, ma che la rete non è uno strumento neutro e anzi è uno strumento che diciamo in questo momento è anche piuttosto schierato, perché sappiamo perfettamente che anche diciamo l'economia finanziaria si muove anche e soprattutto intorno ai big data. Allora questa è una risorsa, una ricchezza che noi produciamo con ogni click, con ogni aspetto della nostra vita che adesso è informatizzato. Ecco, sappiamo perfettamente che non avere una buona capacità di conoscenza di come questi strumenti siano di fatto sì strumenti che possono essere emancipatori, ma in questo momento visto in mano a chi sono, principalmente di controllo. Avevamo parlato anche del diritto all'oblio, come sia un po' se ne riparla in questi giorni. Il governo francese ha recentemente detto, diciamo, che appunto deve essere un oblio globale. Il discorso poi però diventa un po' sterile capire quanto si deve estendere questo oblio, dal momento in cui è la stessa azienda, lo stesso Google che ripesca le tue informazioni, che sceglie quando concedere il diritto all'oblio, quindi lo stesso che dovrebbe essere regolato a regolare. Quindi la sproporzione di fatto che le aziende hanno, diciamo, questi decreti attuativi del Job Act si inseriscono in un panorama di questo genere, quindi la sproporzione che si ha nella possibilità di controllo molto spesso gli apparati tecnologici viene favorita anche da una sproporzione del datore di lavoro a favore del controllo che può esercitare sul dipendente. Quindi sostanzialmente l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori si va a far benedire, perché l'articolo prevedeva che le aziende non potessero controllare a distanza i lavoratori se non nei casi in cui ci fosse stato l'accordo delle organizzazioni sindacali, con buona pace anche della rete libera e democratica che in tanti abbiamo visto strombazzano a destra e a manca. Siamo vento che soffia, legna che alimenta, calore che cresce, fuoco che divampa, sangue che bolle, flusso che scorre, tempo che non passa mai, il tempo scorre. Siamo virgole di un infinito discorso, trascenderebili sullo stesso percorso, disadattati che non trovano posto, siamo pioggia patente che cade a ferragosto, legge costituita e poi sabotata, regola istituita e bruscamente sovvertita, vita, lotta condotta in prima linea, siamo tradizione che resiste, filo rosso che continua, siamo tutto e se tutto. succedono agli istanti. Saldi sul merce scontati attirano ansimanti. Essere agli antipodi di uomini pensanti. Wonderful, very cool, si va avanti a fare il room. Ahimè quei bei tempi oggi come sono distanti. Siamo tutto e se tutto è stato detto e fatto. Siamo l'occupazione che resiste ad ogni strappo. Come il sole che picchia di brutto. Non saremo niente ma sapremo essere tutto. Perché tutto in fondo è quello che ci spetta. Oggi tutti in piazza pronti all'azione diretta. Ma che rassegnazione, niente affatto. La rivoluzione ora cammina sull'asfalto. Sull'asfalto. Ok, io qui ci sono e tu ci sei. E quante volte me ne andrei, ma sempre qua, poi io ritornerei. Se tante volte ho fatto tardi e tu ti perdi negli sguardi, io che provavo a portarti dentro ai sogni miei. E quante volte scapperei da questo posto. Non guardare indietro mai, tu già lo sai che il mondo è nostro. Capire a cosa sei disposto. Nuotare in questo mare qui, lottare per cambiare ad ogni costo. Sì, porto con me tutte le strade che ho inseguito. Contro il vento, contro il tempo e corro fino a che non è finito. E qui non vince né il campione né il bandito. Ma chi vive i propri sogni e sa indicarli con un dito. Accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. È chiaro che mano nella mano i nostri passi andranno un po' più lenti per andare più lontano. È chiaro che tutto quanto quello che facciamo è il risultato del fatto che ci amiamo, del fatto che crediamo in qualche cosa davvero, del fatto che sappiamo fermarci a guardare il cielo, del fatto che fin quando sta vita sfumerà nero rimarremo sorridenti. Sì, a sfidarla con il dito medio dipingo i quadri che ho in testa. È un mondo di ladri ma nessuno li arresta. E forse amore mio la fortuna è questa. Rubiamoci il futuro e poi scappiamo via in fretta. Via in fretta. Vai, accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Tutto sulla pelle mia e non scappo via, è la mia natura. Solo su una strada e se la strada è mia non ho paura. Tra quattro mura è terapia per la mia testa dura. Chiusa dentro a un cuore, chiuso dentro da una serratura. Il vento in faccia e non ti chiedi quanto dura. Porto il fuoco qui, dove il fuoco brilla nella notte scura. Ti porto luce se hai paura. Ti spiego come ho usato l'amore per costruirmi un'armatura. Sono anni che corro per stare al passo col mondo. Se il mondo gira ed è tondo, qua si ripete lo sfondo. E a volte basta che arrivi, sti cazzi primo o secondo. Se c'è qualcuno che non lascia, che ti bruci sul fondo. Vai, accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Non capire mai, non fuggire mai, resta vero in ciò che fai, non lo lasciare, non scappare, non fermarti mai. Non tradire mai, non fuggire mai, resta vero in ciò che fai, non lo lasciare, non scappare, non fermarti mai. Every secrecy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Undici e 28 sui 105.250 FM, siamo in collegamento, come dicevamo in apertura di puntata, con Ermelinda dalla Valle. Erme, ci senti? Sì, vi sento, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno a te. Allora, io sarò breve perché non c'è bisogno di introdurre, diciamo, chissà cosa, un altro appuntamento in valle, un'altra marcia tutti insieme, ancora una volta per dire no TAV, ancora una volta per dire che resisteremo un minuto in più, un giorno in più e sempre un po' più di loro. Allora, Erme, se ci dai un po' di appuntamenti, ci spieghi anche un po' certo. Qualcosa delle state di lotta e ci racconti anche un po' il clima che tira con in valle, come appunto come si è organizzata questa giornata. Beh, intanto passerei subito alla convocazione che per domenica 28 alle ore 10 ad Exil. Exil è anche un po' nuovo per quelle che sono le marce Notav, ma è nuova anche, diciamo, è insolita anche la convocazione all'inizio dell'estate, quando invece abbiamo fatto queste manifestazioni, questo tipo di appuntamenti verso la fine, a conclusione. E questo naturalmente per dare un segnale di presenza importante, proprio per inaugurare quella che dovrà essere un'estate di lotta come le altre, naturalmente sperando di raggiungere i nostri obiettivi, che sono quelli che questo cantiere si fermi e che finalmente la Valle possa cominciare a ragionare su come sviluppare il proprio territorio indipendentemente dalle grandi opere e da questo sistema, insomma, che ci affama come sappiamo tutti. E diciamo che sarà una manifestazione determinata anche perché è importante dare un segnale di presenza e determinazione, tenendo conto che la controparte tende, insomma, a zittire, a far vedere, a non parlare del movimento No TAV, del problema che questo cantiere in Valsusa pone, silenziando un po' in qualche maniera le ragioni di questa lotta. E dunque il corteo serve a quello, si va nel luogo dove c'è il problema, cioè si cerca di andare nel luogo dove c'è il problema, cioè quel cantiere che abbiamo sempre detto è un cantiere illegale, che sta creando notevoli difficoltà da un punto di vista anche degli scavi che hanno loro, ma di cui si sa poco, che sta creando allarme ambientale e sociale per quello che riguarda le polveri che vengono fuori da quel cantiere. La stessa ARPA, che di sicuro non è un organismo a favore del movimento notte, recentemente, perché non vengono dal cantiere dati certi e non li danno mai secondo i tempi previsti. Sì, l'ARPA è la stessa che non ha fatto i rilevi sull'amianto a Palazzo Nuovo, quindi diciamo non è che si possa dire che sia di parte. da quale parte sta, più che altro. Esatto. E dunque tutte queste cose, più il fatto che insomma la crisi economica in cui siamo, sicuramente non sarà facile ottenere tutti i finanziamenti che vogliono ottenere, che devono ottenere dall'Europa, per questa ragione hanno addirittura, diciamo, dimenticato la fantomatica stazione internazionale di Susa, ma pare perché i dati che abbiamo noi sono sempre incerti, perché loro non li danno, però che vogliano, diciamo, continuare l'opera non passando da Susa, ma continuando da questo scavo geologico che stanno facendo a Chiomonte, e quindi, diciamo, evitare il contatto con la popolazione, un contatto ulteriore con la popolazione che sarebbe, diciamo, nella valle aperta e dunque più difficoltoso. E tutte queste cose ci fanno pensare che loro sono in difficoltà e dunque abbiamo bisogno di far vedere, ma di dimostrare che non ci siamo pacificati, che tutte queste ragioni non possono che rafforzarci e andare lì e fare in modo che si focalizzi di nuovo qual è il cuore del problema in Val di Susa, che non è un problema di ordine pubblico, ma è una popolazione che ha deciso di prendere parola su quelli che sono tutti gli avvenimenti che vanno ad interessarla da un punto di vista economico, ambientale, sanitario e tutte le varie ragioni che abbiamo sempre, insomma, detto ormai da 25 anni. E dunque ieri sera c'è stata una grossa assemblea popolare proprio per rilanciare la manifestazione, e qualcuno ha parlato di orgoglio dei Notav, d'orgoglio di questa lotta, perché questa lotta, come tutti sappiamo, non riguarda localmente la popolazione della Val di Susa, ma riguarda questo sistema di sviluppo, quindi è amica e sorella di tutte le altre lotte che si sviluppano sui territori per la difesa dei territori e contro il modello di sviluppo imperante. E dunque questo orgoglio, insomma, cerchiamo di dimostrarlo andando ad un corteo determinato, non importa per quello che mi riguarda i numeri, tanto i valsusini hanno sempre risposto, il popolo notario ha sempre risposto ai nostri appelli, e l'importante è la determinazione. Sì, tra l'altro, appunto, ti volevamo proprio chiedere dell'assemblea di ieri, perché abbiamo visto un po' di foto, abbiamo letto qualche commento già appunto ieri sera mentre l'assemblea era in corso, e si vedevano un po' quelli che sono i grandi numeri degli appuntamenti importanti che il movimento Notav lancia. Ci sembrava ci fosse appunto un po' tutto il popolo Notav, che appunto l'umore fosse abbastanza alto e determinato. Beh, c'era l'umore che c'è ogni volta che noi convochiamo questo tipo di assemblee, che sono state poi la nostra forma, è il nostro luogo, la nostra casa dove decidiamo, prendiamo decisioni e ci prendiamo anche delle responsabilità, quindi la responsabilità di partecipare, l'impegno di fare in modo che vengano più persone possibili, però ribadisco, non saranno i numeri a contarci, quello è un giochetto che fanno le parti, ci hanno smontato quando eravamo migliaia e migliaia di persone, lo fanno sempre, non è quello, l'importante è essere determinati, far vedere che la valle continua a resistere, indipendentemente dai ceti politici, resiste la popolazione, e questa popolazione farà in modo di essere visibile in questa giornata che vedrà la partecipazione di tutta la valle. Naturalmente è un corteo dove ci sarà spazio per tutti, e non saranno, perché a volte cercano di criminalizzare anche i nostri appuntamenti, renderli pericolosi, hanno fatto un grande lavoro da un punto di vista, diciamo, della magistratura anche per intimidire le persone attraverso le denunce, attraverso le multe e tutto quello che hanno messo in campo per gestire il movimento è ancora vivo e saremo in grado, insomma, di dimostrarlo. Questo è quello che si chiede a tutte le persone che conoscono la nostra lotta, di venire a partecipare, testimoniare praticamente, concretamente la nostra opposizione totale a quest'opera. Ma guarda, infatti ricordiamo per esempio l'appuntamento dell'anno scorso, a parte, diciamo, il post 3 luglio che produsse Miso un Black Block, uno degli slogan tra i più, diciamo, anche divertenti del movimento Notav, ma anche la marcia degli over 50, e quindi tutte le tappe che il movimento Notav ha percorso per sbugiardare, per rispondere concretamente nei fatti. Tra l'altro, scusami, questa manifestazione, come ho detto, inaugura l'estate di lotta, ma è una delle tante iniziative che vengono svolte quotidianamente dal movimento Notav, che passano, diciamo, nel silenzio dei mass media, però c'è si va al cantiere costantemente e si va comunque a disturbare sia con gli aperitivi ai cancelli di Chiomonte, ma anche con la presenza alla nostra postazione sopra il cantiere in Val Clarea, con la presenza anche dei cattolici che vanno a monitorare proprio il discorso delle polveri in maniera particolare, e quindi non è che è stato abbandonato. La manifestazione sarà una chiamata per tutti, ma non sarà altro che la continuazione in grande di quello che stiamo facendo e che facciamo tutti i giorni contro questa mala opera. Assolutamente, infatti ci uniamo a te innanzitutto nell'invito al vedersi domenica a Exil, ma anche a tenere d'occhio tutti, diciamo, i siti notav.info piuttosto che i social, per rimanere sintonizzati e aggiornati su queste piccole grandi iniziative che comunque vengono fatte quotidianamente, appunto. Sappiamo, tutte le volte abbiamo anche diciamo allargato l'invito da questi microfoni quando abbiamo potuto, ma appunto ci sono un sacco di iniziative in valle che continuano e mantengono acceso il dibattito su un modello di sviluppo alternativo, che è poi il senso di dire no a questo treno ad alta velocità, e che poi concretamente tengono il faro puntato sul cantiere e fanno in modo di ricordare, diciamo, a chi ci lavora. Perché anche le iniziative culturali, anche tutte le persone che vengono ospiti nella valle, che siano scrittori, registi, tecnici di qualsiasi cosa, comunque nella loro gita in valle di sicuro c'è la tappa al cantiere, cioè nessuno viene in valle per parlare solo con noi, le persone vengono in valle e vengono portate a vedere quello che sta succedendo, perché vedere, poi se si vede, è anche più facile raccontare, è più facile entrare in empatia con tutta la nostra comunità, e quindi questo è un buon servizio che ci rendono tutte le persone, insomma, sì, che vengono a conoscere la nostra realtà. Poi diciamo che quando si mettono a confronto, ricordo per esempio uscite di Pinar piuttosto che altri, rispetto a diciamo la sicurezza rispetto al terreno e la stabilità della baita del presidio Gravella, allora tutto questo genere, diciamo, di mistificazioni, di narrazioni tossiche si infrangono proprio sul, diciamo, solido muro almeno della realtà, perché ogni gita in cantiere fa vedere che quell'altro non è che un mostro cementifero che sta mangiando una terra che dice sonoramente no, e che quindi, diciamo, le chiacchiere stanno un po' a zero. Sì, soprattutto che ci sta avvelenando. Io non perdo occasione per ricordare che sicuramente tutti gli operai, anche le forze dell'ordine che agiscono lì dentro, sono a grande rischio, ad alto rischio, però insomma ci sono lavori nocivi, ci sono uomini e donne che accettano di farlo. Assolutamente sì. Prendiamo atto e ci battiamo per una società diversa, ecco. Bene, Ermelinda, allora appunto come tu dicevi si dà inizio quindi da questa domenica all'estate di lotta, si dà un altro appuntamento in Valsusa, un'altra marcia determinata, come tutte le uscite del movimento NoTav sono sempre state responsabili e coerenti, e allora ci si vede sicuramente domenica a Exil. Sì, tutti quanti a Exil domenica alle ore 10, sempre a NoTav dalla valle. Ciao a tutte e tutti. Ciao Erme, grazie, ci vediamo domenica. Ciao. E allora questo per quanto riguarda l'appuntamento di domenica, speriamo appunto che questa diretta vi abbia trasmesso anche un po' dell'entusiasmo che regnava appunto ieri all'Assemblea Popolare, e appunto come si diceva domenica un primo appuntamento che aprirà un po' l'estate. E allora adesso dopo questa diretta facciamo una pausa musicale, andiamo a dedicare un pezzo a uno dei insomma dei pilastri di questa trasmissione. Vai Pablo! Pablo, che per moltissime puntate ci ha allietato con le sue playlist durante Parole Ribelli, a volte anche un po' eccessive visto l'orario mattutino, ma visto che adesso è costretto da alcune misure nel disagio della periferia torinese, senza poter raggiungere la metropoli e i suoi compagni, gli teniamo almeno compagnia in questo martedì mattina. Andiamo a passare un pezzo che ci ha richiesto poco fa. Ciao Pablo. There's just so much about life that we ain't gon' never understand. But me progression will surely teach you some lessons. I got questions about this profession. Should my happiness be second and my career first? What should be the order? I just don't know anymore. Shit's so distorted. I love my fans and I love the connections. It's a blessing knowing I'm helping people, cause that was not my intention. I was just venting. I was just 17 trying to lace the fucking track up, wake out in the IE. I would always be crying, writing lyrics every day. But my brothers up in juvie and the shit I used to slang, and how my daddy moved away and my mama beating me, and how I just don't wanna fucking live life, so I stay banging on these streets and tagging my graffiti. See, 5 years ago ain't nobody wanna be me, and now you bitches see me, and now you bitches love me, and now I'm here to stay. Call me fuck being hungry. So when I'm on the road, I hope that you be thinking about me. I hope that you can't even eat and get sick without me, cause that's how I feel when I'm not with you. There's such little time and so much to do. So when I'm on the road, I hope that you be thinking about me. I hope that you can't even eat and get sick without me, cause that's how I feel when I'm not with you. There's such little time and so much to do. So when I'm on the road, I hope that you be thinking about me. I hope that you can't even eat and get sick without me, cause that's how I feel when I'm not with you. There's such little time and so much to do. So when I'm on the road, I hope that you be thinking about me. I hope that you can't even eat and get sick without me, cause that's how I feel when I'm not with you. There's such little time and so much to do. E continua la Pablo List. Dell'ultima parola, non ho mai preso così tanti insulti in una sola mezz'ora, e questa parla ancora e ancora, lo so, non è che devi convincermi, e altrettanto non pensavo di costringerti, avrei dovuto stringerti forte e spingermi oltre quando era il momento, ma mi hai battuto sul tempo, cerco il grembo materno, in un mattino d'inverno, che se guardi fuori sembra far buio in eterno, ogni uomo qui al proprio inferno, il mio è più o meno lì all'altezza dello sterno. I battiti confermano, pensi volendo, menti sapendolo, il 30% sì, ma i numeri mentono, fai piano col cuore col pendolo, che i vicini ci sentono, se gli altri ti difendono, anch'io potendo, ma non pretendo niente in cambio, il senso del discorso è più ampio, mi sbagli, il diavolo sta nei dettagli, e mi accontento pur di accontentarmi, e se questo è il presupposto è già tardi, se guardi le coppie degli altri, sono foto sorridenti, fatte coi parenti con cui poi non parli, sono televendite mute, poesie scritte in lingue sconosciute, il capo ufficio che non ride alle battute, ci ho provato ma le va della salute, ci capiamo a giorni alterni, ci allontaniamo stando fermi, presi di posizione l'orgoglio sui germi, spalanco gli occhi come Kermit per vederti, vorrei tenerti, vorrei poterti dire ancora le parole giuste, però ne ho dette troppe e forse le ho già dette tutte, e non c'è niente di speciale, lasciarti un bel ricordo mi fa male quanto farmi odiare, dovessi disegnare, la mia donna ideale avrebbe il tuo volto, dammi un secondo per metabolizzare il boccone più amaro del mondo. Va bene, sono pronto. O almeno credo. Vengo a piedi fino a casa tua. È arrivato, torno indietro. year. Dead presidents, Stickman, M1. You know what we want. We know what we need. We gotta organize and make it happen, you heard? LGO, let's go get it. Justice and freedom, what you want? Let's get organized. We won't survive if we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. Don't just be singing the song. Let's get organized. Justice and freedom, what you want? Let's get organized. We won't survive if we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. Don't just be singing the song. Let's get organized. I'm about my freedom from the cradle to the grave. You got me fucked up. You think I'm just gonna be your slave? I've been made a freedom fighter, molded by my conditions. Take strength, organization, spirit and vision, and take political education to stop imperialism. Most of all, it take the people to keep the mission up late, strategizing in the project kitchen. And we ain't got a pot to piss in. Man, listen, nothing to lose but my chains and everything to gain. Malcolm X ain't die in vain. International solidarity, just for total clarity. The worldwide payback for everything that they jack from me. Ride or collide, unify, not divide. Pick a side, stick your fist in the sky, and get high off the people. Let's celebrate the end of oppression, and laugh at the results of the presidential election. And dance on the grave of the pigs with no question. And keep the Smith and Wesson for protection from the Western. Uncivilization situation we facing. Soldiers better get on your boots and start lacing. Justice and freedom, what you want? Let's get organized. We won't survive if we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. Don't just be singing the song. Let's get organized. Justice and freedom, what you want? Let's get organized. We won't survive if we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. Don't just be singing the song. Let's get organized. Sick of these crooked police. Sick of these. Allora, 11:51, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli, proseguiamo con la puntata di questo martedì 23 giugno e come vi avevamo preannunciato in apertura andiamo a parlare un po' del contesto locale. Dopo aver presentato l'appuntamento Notav di questa domenica, ritorniamo qui a Torino per presentarvi la nuova occupazione che è stata realizzata questa domenica da diverse famiglie. Per farlo abbiamo a questi microfoni Laura del Comitato Prendo Casa, che intanto salutiamo. Ciao a tutti. Ciao Laura, allora raccontaci un po' qual è la situazione. Appunto abbiamo letto domenica di questa nuova occupazione che è stata fatta in via Bardonecchi all'interno di uno dei tanti edifici abbandonati che ci sono a Torino e che oggi è diventata casa per diverse decine di famiglie che in questi mesi si sono ritrovate con ingiunzioni di sfratto o comunque con situazioni abitative complicate. Quindi ti chiederei intanto di spiegarci un po' che tipo di edificio è questo, di darci anche qualche dato, insomma, sulla situazione torinese, in particolare sulla storia di questo complesso. Sì, certo. Allora, come avevamo già detto domenica, quando ci eravamo sentiti, la storia di questo edificio è abbastanza emblematica, perché fino dal 1958 era di proprietà comunale, affidato a Axea, ovvero il consorzio per lo sviluppo dell'elettronica e dell'automazione, e il quale ha vissuto uno scandalo, perché Axea è praticamente il paradigma di un rapporto distorto fra politica e presunta impresa, l'esempio lampante, ovviamente negativo, di come non vadano gestite e controllate le imprese erogatrici di servizi pubblici. Successivamente al periodo sotto Axea, nel 2012 il consorzio fallisce e l'anno successivo il comune lo vende all'attuale proprietà, che è la Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni finanziarie, ha partecipato allo Stato all'80% e per la rimanente percentuale dalle banche. Quindi ovviamente l'intento è vendere la struttura a qualche grossa agenzia immobiliare o al solito palazzinaro per soliti progetti di loft, oppure si lanciava un supermercato, un parcheggio. Ok, sappiamo anche che tra l'altro l'edificio era sì abbandonato, ma è comunque abbastanza in buono stato, e questo è anche un po' diciamo emblematico di quali sono le politiche torinesi, che appunto lasciano e sfrattano migliaia di famiglie ogni anno e poi possono permettersi il lusso di tenere appunto edifici come queste in buone condizioni, che potrebbero essere immediatamente ridestinati a scopo abitativo, chiusi e appunto vuoti. Assolutamente sì, infatti è per questo che ovviamente la responsabilità di questa situazione ricade sempre sulle istituzioni, che creano enormi buchi di bilancio per creare una città vetrina con grandi eventi e poi tagliano nei servizi sociali, come negli ospedali che chiudono, scuole che crollano, che non vengono gestite bene, appunto come poteva essere l'ex Mario Enrico. E poi ci ritroviamo appunto con 4.500 famiglie sfrattate senza alcun intervento, se non tramite la polizia, gente buttata per strada e posti vuoti inutilizzati. Senti, la reazione del quartiere qual è stata finora? Sappiamo che è un quartiere prettamente residenziale, in cui diciamo l'esperienza delle occupazioni forse è un po' nuova rispetto invece ad altre zone di Torino in cui questa pratica è ormai un po' più rodata negli ultimi anni, mentre qui forse è stato un po' diciamo un primo impatto diciamo con questa forma, sì, di riappropriazione. Nonostante sia una novità, diciamo, l'accoglienza è stata molto positiva. Nel senso che la gente che passa di qua conosce bene la storia di questo edificio, anche perché nel periodo Xea poi c'erano stati anche tutta una serie di scioperi, quindi comunque aveva fatto molto, molto notizia, aveva avuto una certa cassa di risonanza, è abbastanza conosciuto e la gente non vedeva l'ora di vedere questo stabile riprendere vita, perché è noto che sia in buono stato dentro ed è altrettanto consapevole che sia assurdo questo spreco di risorse. Senti, sappiamo anche che avete lanciato alcuni appuntamenti a partire, vabbè, da oggi con la conferenza stampa, ma soprattutto per il fine settimana, perché questo spazio appunto non ridia solo un tetto a queste famiglie, ma possa essere anche un luogo di scambio, di socialità, di incontro. Quindi ti lascerei magari la parola ancora su questo. Sì, esattamente, il progetto è di ampia veduta, nel senso che non riguarda solamente la parte di abitativo per le famiglie che non hanno una casa, ma comprenderebbe altre situazioni come una ludoteca per i bambini, un progetto di biblioteca, la gente che è passata qua davanti addirittura proponeva fate dei laboratori. Noi abbracciamo qualsiasi tipo di idea e appunto rilanciamo sull'iniziativa che stiamo organizzando per sabato. Alle 16 faremo una merenda per i bambini con giochi, un aperitivo, e alle 18 ci sarà un'assemblea pubblica per presentarci al quartiere, dove chiunque vuole passare per conoscerci può anche proporre delle idee, appunto perché questo posto diventi un bacino pubblico di cui tutti possano usufruire. Va bene, senti, in chiusura sappiamo che insomma le prime settimane di occupazione sono sempre quelle più intense, in cui tanto lavoro c'è da fare, quindi magari possiamo rilanciare anche da questi microfoni l'appello per quello che serve appunto in questi primi giorni, sia a livello di materiale sia anche di proprio di aiuto di chi ha qualche ora magari da dedicare a questo nuovo spazio. Sì, ovviamente serve, siamo i primi giorni, siamo qua da domenica, quindi serve un po' tutto, servono ancora dei materassi per poter dormire, coperte, viveri di prima necessità, ci sono tante famiglie con bambini piccoli, sono passati anche a portare dei giocattoli, hanno fatto questo gesto carino, e poi per il resto chiunque voglia venire a dare una mano anche solo per le pulizie è ben accetto. Va bene, Laura, ti ringraziamo, allora vi mandiamo un in bocca al lupo per tutto e grazie, sicuramente rilanciamo l'appuntamento di sabato con appunto con la speranza e l'invito che ci si riesca appunto ad aprire il quartiere e iniziare un rapporto virtuoso e positivo. Assolutamente sì. Grazie Laura, a presto. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. E nel frattempo è arrivato un sms, ascoltatori attentissimi sui cisti. Controllori metro, stazione Lingotto, cisti, viaggiare informati. Instead of protection. They take away the welfare and food, clothes and shelter. Got these teens in wheelchairs, military veterans, but the people waking up to resist this oppression. Everywhere we go, we travel around the globe, and it's the same struggle. The working class, truth be told, be the ones that suffer the top of the food chain. Rich, white, fat bosses flossing with 90% of the world's resources. It's obvious, even though that's not what Obama says. Too many broken promises. We raising up the consciousness in the community to fight the real enemy. From Tennessee to Italy, we need solidarity, vote. We didn't end up on the bottom from the boat, no. We came in chains on the bottom of the boat, low. They'll never free us, they elections is a joke. Only way we break the chains of our repression is revolt, so. Justice and freedom, what you want? Let's get organized. We won't survive, but we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. Don't just be singing the song. Let's get organized. Justice and freedom, what you want? Let's get organized. E allora, per chi si fosse sintonizzato all'ultimo, per chi si fosse perso l'informazione, l'occupazione è in via Bardonecchia numero 151. Ripetiamo l'appello a portare qualunque cosa possa essere utile, diciamo, ciò che non si riesce a imbarcare per Ventimiglia in questi giorni, perché in cui è ancora aperta la raccolta, materiali da cucina, casa, materassi, insomma stoviglie, tutto quel che può servire, in via Bardonecchia numero 151. Halfway down the block.

chip for your melon. Play the space. Your brain was a terrible thing to waste. .250, le libere frequenze di Radio Blackout, siete sempre in compagnia di Parole Ribelli e anche per questa settimana ci avviamo verso l'ultima parte di questa puntata. E allora, dopo alcune notizie più legate diciamo a avvenimenti vicini a noi, ci allontaniamo un po' dalla contingenza per dedicarci invece a una diretta un po' diversa che vi abbiamo presentato a inizio puntata. E per farlo dovremmo avere ai nostri microfoni Damiano del progetto Valderrama, l'illusione del gol, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao, ciao a tutte e tutti, ciao, sono con voi. E vai. Allora, con te vorremmo appunto presentare un po' questo progetto che avete lanciato, che sappiamo che state proponendo appunto anche su altre emittenti indipendenti e che appunto adesso presenteremo anche qui sulle frequenze di Radio Blackout. E ti chiederei innanzitutto di spiegarci appunto come è nato questo progetto, di che cosa si occupa e appunto come lo state portando avanti. Certo, allora... Valderrama è una rivista online che parla di calcio, però è calcio da un punto di vista narrativo, storico, sociologico, insomma non ciò che riguarda i risultati, le prestazioni, le partite eccetera, ma piuttosto i racconti e le storie che si muovono attorno al calcio. A noi non interessa niente se è più forte Cristiano Ronaldo o Messi, ma ci interessa di più, ci divertiamo di più a parlare di Messi che vomita prima della partita o della gelatina che Ronaldo si mette in testa, per fare due esempi illustri, no? Ma spesso andiamo soprattutto invece a ripescare cose che si muovono in spazi più angusti, narrazioni che non vengono riportate dai grandi media o storie che... passano diciamo tra le righe e non vengono mai sviluppate nello specifico. Tra questi, all'interno di questo progetto abbiamo deciso a un certo punto che alcuni articoli soprattutto di narrativa, erano degni di essere letti in radio. Perché? Innanzitutto perché questo dà la possibilità a chi magari non ha la voglia di leggersi un articolo tutto intero di ascoltarlo in un momento della giornata in cui vuole qualcosa di sottofondo, eccetera, come se fosse insomma un normale podcast, e poi dà la possibilità di avvicinarsi al calcio anche ai non vedenti, ad esempio, perché magari si può ascoltare la radio e ascoltarsi una storia nuova che non si conosceva. Così abbiamo fatto questi montaggi con dei bravi lettori o anche attori teatrali, nostri amici insomma che abbiamo chiamato a cimentarsi in queste letture, e li abbiamo montati con delle musiche che hanno a che fare con l'articolo stesso ovviamente. E poi sì, abbiamo proposto questa cosa a molte radio indipendenti per cominciare, stiamo andando in onda a Bologna su Radio Fugico, a Brescia su Radio Onda d'Urto, e adesso insomma iniziamo questa avventura. E Torino su Radio Blackout. E vai. Senti, ma è un po' appunto, credo che sia, senza voler essere pleonastici, senza voler dire qualcosa di troppo ovvio, un po' se ci racconti l'esigenza di appunto andare nelle stanze anguste, negli angoli un po' del calcio, perché sembrerebbe, diciamo, da quanto brillano quei dettagli che tu hai detto noi riteniamo inutili, che non ce ne siano altri. Bene, questo blog sembra proprio raccontare un'altra storia, anzi altre storie che appunto siano interstizi un po' meno chiacchierati, e soprattutto ci interessa anche in un momento in cui abbiamo visto il mondiale in Brasile, abbiamo visto gli europei, abbiamo visto lo scandalo FIFA, insomma abbiamo visto come di fatto legato allo sport, questo sport in particolare, perché per la sua vocazione, per quanto è seguito, ma sappiamo perfettamente che, diciamo, un'Olimpiade che ha più discipline non è da meno, di come il grande evento, la grande opera trovino come tecnica predatoria, come paradigma estrattivo nell'evento sportivo poi tanta, diciamo, un terreno abbastanza fertile. Quindi sicuramente appunto non possiamo fare altro che apprezzare una delle narrazioni differenti, però appunto non è scontato, quindi se volevamo sapere un po' qual è l'esigenza dietro a un Valderrama, perché leggere Valderrama, perché appassionati di calcio e narratori. Ma guarda, allora l'esigenza nostra di partenza in realtà è stata quella che può forse ricondurre a un immaginario abbastanza omosociale, ecco, cioè quella di un gruppo di amici che, ritrovandosi a parlare, si divertono facendo questi racconti, no? Però in realtà quello di cui ci siamo accorti è che ci piaceva molto giocare con le parole e giocare anche con gli eventi, cioè nel senso, quando parlavamo tra di noi cominciavamo a un certo punto ad evocare cose che non erano mai accadute, oppure ad enfatizzare dei particolari che non sarebbero completamente inutili ai fini del calcio come lo conosciamo sui grandi media, eccetera. E per cui ci siamo detti, vabbè, perché non, visto che queste cose sembrano degne di valore, perché non cominciare a farlo professionalmente e a dare la possibilità a un pubblico di leggerle. Dopodiché, su quello che dicevi tu, noi nel nostro manifesto, diciamo, capimmo che non era il pallone ad essere malato, ma tutto il resto. Quindi, cioè, questa cosa qua del calcio malato, noi in realtà la vediamo un po' al contrario, cioè noi vediamo il calcio come un gioco, e proprio per questo all'esterno del calcio giochiamo anche con tutto quello che ci sta attorno, quindi costruiamo immaginari differenti, eccetera. E dopodiché, come ben sappiamo sia io che te che tutti gli altri, insomma, la malattia non sta lì, cioè la malattia c'è anche lì, perché è una questione generale, sistemica, insomma, che va affrontata più ad ampio raggio, e nello specifico noi cioè chiaramente a volte ci sono anche dei pezzi che fanno delle indagini, quando c'è stato lo scandalo FIFA ad esempio noi già avevamo raccontato la storia di Rimé, però anche lì Rimé, che è il fondatore dell'organizzazione internazionale, insomma, del calcio, però anche lì noi l'abbiamo fatto da un punto di vista diverso, cioè abbiamo raccontato la storia di Rimé Democristiano che si destreggia tra i vari poteri, no, per garantire il funzionamento di questa organizzazione, che deve acquisire sempre più potere fino ad essere egemonica, fino ad arrivare quindi allo scandalo che vediamo oggi. E in realtà noi già le radici le avevamo raccontate in questo modo, per cui sì, insomma, cioè, l'esigenza poi è anche diverso da parte di ognuno di noi. Ad esempio io mi occupo molto di ricostruire, anche, cioè, di fare proprio delle ricostruzioni storiche, quindi ad esempio ci sono degli articoli che si occupano di come il fascismo ha sfruttato il calcio, di come ha sciolto delle squadre perché non andavano bene al regime, e come ne ha create altre, come ne ha create altre, che erano, esatto, che erano più funzionali, oppure insomma sì, storie di questo genere, ecco, c'è un po' di tutto. Diciamo che a partire dal nostro punto di vista, dal nostro presente, lanciamo delle traiettorie che possono andare all'indietro, quindi raccontare storie passate, ma anche in avanti, quindi immaginarsi scenari che non esistono, oppure anche raccontare di avvenimenti presenti che in realtà non si registrano ma noi li creiamo, ecco, c'è un po' tutto questo, quindi un po' di ricerca storica, un po' di narrazione, ecco sì, insomma, è un po' di cronaca, ma cronaca nel senso di sempre di racconto di fatti che stanno attorno al calcio, non, insomma, quello che non ci interessa è l'analisi dei dati, delle partite, queste cose ci interessano poco, per quello insomma il calcio si può guardare in televisione e non è quello il nostro scopo. Senti, ma a proposito di storie al passato, ci racconti anche come è nato il nome del blog Valderrama? Ah, certo, vabbè, guarda, lì la scelta del nome è stata molto, molto combattuta, perché c'erano vari nomi ovviamente sulla piazza. Abbiamo pensato più o meno da subito di dare il nome di un calciatore e tra i calciatori ci piacevano questi personaggi un po' strani dal punto di vista, diciamo, eurocentrico del calcio, no? Quindi quello del calciatore professionista, eccetera. Ci piacevano invece questi calciatori che erano dei personaggi soprattutto fuori dal campo e quindi di riflesso lo diventavano anche in campo, perché avevano un modo di giocare un po' strano, un po' fuori dagli schemi e quindi dovevano essere assecondati dalla squadra. E tra questi Valderrama, insomma, è quello che abbiamo fatto varie votazioni. Valderrama è quello che ci è piaciuto di più come personaggio popolare, insomma. Va bene, direi che ci hai fatto un quadro sicuramente interessante di questo progetto. Adesso, per darne diciamo un'idea un po' più concreta agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout, direi che possiamo passare un primo pezzo di quelli che appunto avete realizzato con queste letture musicali. Noi abbiamo pensato di passare Anatomia del pennellone, che ci hai mandato per presentarci appunto un po' questo progetto. Se hai voglia magari di dirci anche due parole per introdurre questo pezzo, poi lo passiamo subito. Sì, ecco, Anatomia del pennellone è un pezzo abbastanza divertente che parla di questo tipo di giocatore che non si vede più, e cioè dell'attaccante di peso che in realtà non sa fare più o meno niente con i piedi, ma è bravo a stare al centro dell'area, a farsi spazio con il corpo, a lottare, a fare da sponda per i compagni. Insomma, abbiamo voluto omaggiare questa figura perduta del calcio, spesso con i capelli lunghi, unti, la maglia strappata dagli scontri. Ci piaceva, ecco, questo immaginario, questo calciatore che promette un buon immaginario, ecco. Va bene, apprezziamo sicuramente. Comunque, anche noi, prima di mandare Anatomia del pennellone, segnaliamo ascoltatrici e ascoltatori che noi riportiamo cronaca e varie ed eventuali da diciamo più ambiti possibili, ma nasciamo come trasmissione universitaria. Bene, su Valderrama c'è un articolo che si chiama Confetti Rossi sulle simpatiche traiettorie di incrocio tra università e calcio. Esatto, se lo potete trovare in questi giorni, tra l'altro appena uscito. Infatti, volevamo fresco. E per appunto per tutti e tutte coloro che si sono fatte e come fai a non farti appassionare da questo progetto, www.valderrama.it. Va bene, grazie a tutti. Io vi saluto e vi lascio questo pezzo al pennellone. Perfetto, Damiano, ti ringraziamo per la presentazione. Ripasseremo sicuramente altri pezzi nelle prossime settimane, quindi ti ringraziamo, insomma, per questo inizio di collaborazione. Certo, io ringrazio voi, soprattutto te che insomma mi hai chiamato niente, ci risentiamo e vi auguro un buon ascolto. Ciao a tutti. Grazie Damiano, buona giornata. Ciao. Ciao anche a voi. Ciao. E allora questo, come dicevamo, Anatomia del pennellone. Colucci ha un mirato per la nello stadio, rinato dalla Bologna. la preta para Nasser, viene Nasser al rechazo, viene en extrema retaguardia del seleccionado nacional, Rincón, que se fue, bien cambio de pierna, aquí viene el pibe, cántelo conmigo, ya viene, llegó el pibe, Valderrama le va a pegar, le pegó abajo. ¡Qué señor golazo! ¡Gol de Colombia! A la altura del minuto 40, en un tiro cruzado, maniobra individual de nuestro pibe Valderrama. Le storie della buonanotte di Valderrama. Giace inerme, livido, sul tavolo operatorio. Non era esattamente un fulmine di guerra nemmeno da vivo, ma la folta chioma dava ai tifosi l'illusione del movimento. I piedi, innanzitutto. Dicevano fossero quadrati, storti, a banana. Sembrano piedi comuni, invece, se non per la misura abnorme. Uno degli studenti del corso di anatomia di Coverciano li tocca e dice: «Ne ho sentito parlare, ma non ne avevo mai visto uno. Dicono giocasse davanti prima dell'ispanizzazione». Molletto che non sapeva giocare a calcio, ma tutte le squadre ne avevano uno. Al tatto i piedi sono di una consistenza adamantina, ma solo esternamente, spingendo sull'epidermide con veemenza, dalle venature della spessa corteccia filtra un sottostrato di carne viva, ancora rossastra nonostante la tumefazione. Un involucro di callo, indurito da mille calci ciccati, da zappate sui dischetti di rigore. Sembra quasi di riconoscere ancora pezzi di zolla fra ciò che resta delle sparute unghie violacee, o forse solo la cancrena. Dentro, la carne maciullata dai pestoni subiti nell'aria piccola, solo a lottare contro le difese schierate, fra i diti in culo di Necruz e le tirate di peli e capelli di Montero. La caviglia non presenta più alcuna elasticità, ma non è a causa del rigor mortis. Le cartilagini si sono consumate anni prima, franando sotto il peso del torso imperioso, lasciando solo le gigantesche ossa a sfregare le une contro le altre. La ricalcificazione approssimativa delle tibie rende ancora più grottesche quelle che sembrano le gambe di un bambino o di un vecchio. Con calzettone parastinco, sempre fin sotto il ginocchio, l'apparenza era quella di arti proporzionati al resto del corpo pachidermico. In verità gli stinchi sono ossuti, scarni ed incredibilmente lunghi. Non sembra esserci mai stata alcuna forza nei muscoli del polpaccio. Il suo nome ha molti nomi. Qualcuno lo ricorda ancora come il centroattacco, centravanti, boa, numero 9, e poi colosso, Marcantonio, gigante buono. A seconda delle latitudini, diversi i nomignoli, molteplici gli sfottò: Pennellone, Giandone, Calascione, attaccante strutturato, sfruttato, da nanetti scattanti per tirar via i difensori e permettergli di vincere le classifiche cannonieri, sfruttato da tutti i compagni per far salire la squadra, sfruttato dall'allenatore per giocare col lancio lungo, per difendere un pareggio, per fare a sportellate, sponda, spizzata, appoggio, ostruzione, carica al portiere. Quante le gomitate, quanti i setti nasali deviati, quante le testate sul palo. Molti hanno dimenticato. C'è stato un tempo in cui era un eroe. I nonni di quelli del piede a banana lo chiamavano John Charles Cunnan Nordahl Rombo di Tuono. Un'antica e nobile dinastia di nomi altisonanti, epici, tramontata in modo lento e inesorabile. Qualche rumoroso strepito di scuravi, e poi a tentoni nel buio, per spegnersi in interminabili silenzi. Penev. Nemmeno i raggi gamma di Mazinga, o i vari modelli di Cyborg, Bobic, Janker, Koller, l'hanno salvato dall'oblio. Sì, perché mentre Teddy Sheringham arretrava sulla tre quarti in cerca di rifugio, e i più furbi, come Zidane e Ibrahimovic, trasformavano il ciabattone in un sandalo di pelle comodo, moderno e avvolgente, il nanetto, suo ex compagno, affilava gli artigli. Le poderose spalle sulle quali si era arrampicato tante volte in passato parevano adesso un grosso bersaglio nel quale affondare i suoi aculei. Con l'aiuto di un mediocre centrocampista del Barcellona, che mai aveva tirato in porta in carriera, tramava nell'ombra. Il letale soporifero veleno del tiki-taka si spandeva dal delta del fiume Ebro fino al Reno,

dollar dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar dollar bill, yo. E allora la mattinata di Parole Ribelli giunge verso la fine, ma rimanete sintonizzati su 105.250 per il GR e per le trasmissioni della programmazione pomeridiana. Eddie e Fra, prima di salutarvi, come al solito, vi danno gli appuntamenti. E allora cominciamo proprio da martedì con il consueto ritrovo all'asilo per la cena Benefit Detenuti questa sera, via Alessandria. Via Alessandria, come al solito, ci si vede lì. E non troviamo niente segnato per domani, mercoledì, quindi saltiamo direttamente a giovedì e vi ricordiamo un appuntamento che si terrà all'interno dell'iniziativa Happy Balbo to You nell'area pedonale di Via Balbo. Questo giovedì verrà proiettato Di Terra di Cuore di Tav, il documentario conversazione con Luca Abba, che è stato realizzato da Marte, l'officina multimediale. L'appuntamento è per le 19.30, ci sarà prima un aperitivo, poi non appena le tenebre caleranno si darà spazio alla proiezione. E andiamo a venerdì 26 in Festazione Hardcore al Mezcal Squat, due giorni Benefit Radio Blackout. Per quel che riguarda le sonorità della notte e presentazione di Riot the Board Game, il gioco da tavola del conflitto sociale in Via Balbo, nell'area pedonale in cui da settimane di consueto si tengono iniziative di socialità. Dalle 18 saranno presenti gli autori di questo, appunto, di questo gioco, più bar aperitivo, sarà possibile provare a acquistare il gioco, sarà possibile giocare, sarà possibile parlare con i ragazzi che appunto si sono lanciati in questa ironica avventura. Allora Riot the Board Game dalle ore 18 in Via Balbo. Arriviamo allora al fine settimana, sabato 27 giugno, sempre nuovo appuntamento con Infestazione Hardcore al Mezcal Squat, sempre Benefit Radio Blackout, mentre per quanto riguarda il pomeriggio ci sarà l'annuale appuntamento con il Pride torinese. Il consiglio di Parole Ribelli è quello di unirvi e cercare lo spezzone dell'assemblea Orgoglio de Genere, che in queste settimane si è riunito alla cavallerizza occupata e che vi proporrà insomma uno spezzone fantasioso e divertente, ma anche con qualche contenuto politico in più rispetto a buona parte di quella che è ormai la composizione attuale dei cortei del Pride. E soprattutto a fine corteo ci sarà una bella inversione a U in Piazza Vittorio per ritornare indietro un pezzettino e arrivare alla cavallerizza reale, dove ci sarà il The Gender Queer Party, festaccia post Torino Pride con spettacoli, performance di drag queen, musica e DJ set con una line up decisamente interessante. E arriviamo così a domenica, dove ridiamo l'appuntamento alle 10 a Exil per la marcia Notav. Eddie e Fra vi salutano, il tempo di Parole Ribelli sta giungendo al termine. Rimanete sintonizzati per il GR, per la programmazione pomeridiana, e noi ci sentiamo martedì prossimo. Un saluto a tutti e a tutte, un augurio di buona giornata e come sempre rimanete sintonizzati. A martedì.